stagione, come gli aquiloni. La memoria inganna fra immagini e visioni. Ti rivedo qui sulla nostra terra a insegnarmi cose che ancora non so. Insegna quello che non vuoi. Stamattina ho visto i tuoi occhi nello spazio.